Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Indebolisce la nostra anima la perdita di interesse per il cinema, indebolisce le nostre emozioni. Diveniamo solo corpo. Il 2000 è diventato il secolo del corpo. Ci sono solo cuochi, cucine, ricette, sport, lifting. Ma io pensavo, chissà il 2000 che ci porterà. È tutta una cosa di corpo. Siamo andati troppo avanti con il corpo in questi anni. Dobbiamo sostare, fermarci e permettere alle nostre anime di raggiungerci. Perché sono rimaste indietro. Sono rimaste indietro le nostre anime. E questo solo il cinema lo può fare. E questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è l'accorato appello di Roberto Benigni oggi al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, insieme a tutti i candidati, attori, registi, questa sera al Davide di Donatello, perché seguiremo appunto la 62esima edizione delle premiazioni. Insomma, era il suo appello accorato, anche un po' sempre umoristico, surreale di Benigni. Quindi parleremo di cose piacevoli e leggere come il cinema e come il calcio, e poi ci sono cose invece come la politica che deciderete voi se sono leggere, piacevoli o spiacevoli, e poi invece i due terribili fatti di cronaca che sono questa vicenda di un padre che a Trento ha ucciso a martellate i suoi due bambini piccoli e poi si è tolto la vita, e poi la vicenda di cui si parla ormai da due giorni, di questo ragazzo ventenne che è stato ucciso fuori da un locale ad Alatri da un gruppo di persone, è stato massacrato, pestato a morte, e nessuno per il momento dice com'è andata, chi è stato effettivamente. Si spera che ci sia una svolta alle indagini dalle scene riprese dalle telecamere. Insomma, moltissime cose per iniziare la settimana di Effetto Notte, quindi non perdete un solo minuto della trasmissione. Vi ricordo, per la vostra interazione con il programma, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è sempre quello, 349-238-6666, 349-238-6666. Quindi, prima di approfondire i temi, lo sapete come al solito, vi faccio una sintesi della giornata. Il governo ai conti, tra 15 giorni il DEF approda in Parlamento, Gentiloni spiega che l'esecutivo punta su lavoro e investimenti mantenendo gli equilibri di bilancio, e Renzi attacca i conti, sono peggiorati, dice, con i governi Berlusconi, Monti e Letta. Trento, due bambini uccisi a martellate dal padre che poi si è tolto la vita. Gli inquirenti parlano di un gesto dovuto probabilmente a problemi economici. Il ventenne pestato a morte dal branco, l'appello del sindaco di Alatri. Chissà, parli, fuori dal locale c'erano tante persone, nessuno ha fermato gli aggressori. Roma, nuova grana per la sindaca Raggi, irregolarità nella raccolta di firme per la sua candidatura, lei si dice tranquilla. Russia, il ritorno delle proteste, al blogger anti-Putin Navalny, 15 giorni di carcere. Austria-Vienna potrebbe varare già domani il ritiro dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Il gasdotto in Puglia, via libera del Consiglio di Stato alla realizzazione. Cinema, stasera la cerimonia di premiazione per i Davide di Donatello, oggi attori e registi accolti al Quirinale. Farmaci e sessualità, in Europa 100 milioni di pillole dell'amore per lui senza ricetta, 19 milioni vendute in Italia, dilaga il fai da te via web o nei sexy shop. Calcio, Sibilla e Oliveri eletti vicepresidenti della FIGC. Partiamo quindi dall'economia e dai conti pubblici italiani. Tra due settimane il DEF, cioè il documento di economia e finanza, arriva in Parlamento. Il Presidente del Consiglio Gentiloni spiega che il governo punta su lavoro e investimenti mantenendo gli equilibri di bilancio e razionalizzando la spesa per sostenere la crescita. La manovra correttiva da 3,4 miliardi conterrà misure a partire da un pacchetto di 1 miliardo per l'economia delle zone terremotate. Non una cifra aggiuntiva, dice, ma una fetta della correzione da non calcolare nel fiscal compact. Poi entreremo maggiormente tra poco nel dettaglio con il primo ospite. Nel frattempo Matteo Renzi torna a farsi sentire e non ci sta a tacere su quelle che chiama fake news, notizie false, virali sui conti, e interviene dicendo: i conti sono peggiorati con Berlusconi, Monti e Letta, e aggiunge: noi più rigorosi senza essere proni con l'Unione Europea. E poi questa notizia che riguarda il gasdotto in Puglia: il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti dal Comune di Melendugno e della Regione Puglia nei confronti della sentenza del TAR sul cosiddetto TAP. Quindi il gasdotto si farà. A Melendugno da giorni proseguono i sit-in e le manifestazioni contro il cantiere, contro la realizzazione dell'opera. E poi vi dicevo questa pesante pagina di cronaca nera a partire da Trento, dove un padre ha ucciso due figli e si è tolto la vita. Ho sempre visto una persona equilibratissima, i bambini li adoravano, non non posso immaginare cosa può scattare nella mente di un uomo. Guardate, mi sto commuovendo. Vicini di casa, come che abbiamo sentito, i conoscenti sono increduli. Una famiglia perfetta, affermano, senza conflitti. Una coppia che adorava i suoi tre figli. In mattinata invece il buio. È stata la mamma, veterinaria originaria dell'Alto Adige, Sara Faiella, una volta rientrata in casa a trovare i suoi due bambini più piccoli, di 3 e 5 anni, morti. La primogenita di 13 invece era fuori, in gita scolastica. Scattato l'allarme, la caccia al padre, Gabriele Sorrentino, 45 anni, si è conclusa con il ritrovamento della sua salma in una scarpata. L'uomo, originario di Roma, ex carabiniere, ultimamente invece broker, si è ucciso gettandosi nel vuoto non lontano da dove abitava, un attico del nuovo quartiere di Trento Le Albere firmato da Renzo Piano. A quanto si sa, la coppia avrebbe firmato in giornata il rogito per l'acquisto anche dell'appartamento adiacente. La pista dei problemi economici è quella seguita come principale, afferma il sostituto procuratore di Trento Pasquale Profiti. La prima pista verosimilmente sarà quella delle ragioni finanziarie, di difficoltà genericamente di carattere finanziario. Nelle prossime ore gli esami autoptici sui corpi dei piccoli. Sono stati colpiti alla testa con un oggetto pesante, secondo indiscrezioni, un martello. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi ci sono le indagini sull'uccisione del ventenne ad Alatri, vicino Frosinone, massacrato di botte all'esterno di un locale. La procura di Frosinone non conferma, ma sarebbero 9 gli indagati per l'omicidio di Emanuele Morganti, 8 italiani e un albanese. Una videocamera di sicurezza avrebbe ripreso il brutale pestaggio del ventenne avvenuto venerdì notte ad Alatri all'esterno di un locale. Le immagini sono al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di accertare le responsabilità delle persone che hanno partecipato al massacro del giovane, morto dopo una rissa scoppiata per un apprezzamento non gradito rivolto alla sua fidanzata. Chissà, parli, Alatri non deve essere omertosa, è l'appello del sindaco Giuseppe Morini, ospite di Effetto Giorno. Tutta la città è attonita, è basita, perché veramente non sappiamo come reagire, perché ci siamo solo spaventati. Per domani in città è stato proclamato il lutto cittadino, mercoledì sera ci sarà invece una fiaccolata per ricordare Emanuele e dire no alla violenza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi, come vi anticipavo, torneremo su questi due terribili casi, anche con l'analisi di uno psichiatra per aiutarci a capire che cosa passa nella testa di un uomo che per problemi economici, almeno così sembrerebbe, uccide a martellate due figli piccoli, e poi anche come branco si possa scatenare così senza scrupoli contro un ventenne per un'assoluta inezia. Adesso intanto passiamo a Roma, c'è questa nuova grana per la sindaca della capitale. Secondo un servizio del programma di Mediaset Le Iene ci sarebbero state irregolarità nella raccolta di firme a sostegno della sua candidatura. Lei si dice tranquilla, Virginia Raggi, faremo accertamenti, ma i miei delegati di lista dicono che non ci sono irregolarità. Il Movimento 5 Stelle la difende dicendo mettetevi l'animo in pace. Il PD intanto dice dopo Palermo e Bologna una firmopoli a 5 Stelle anche a Roma. Poi in casa dei democratici si accende la campagna naturalmente per le primarie. Orlando, uno dei candidati, incassa l'appoggio di Letta, che dice bisogna superare la visione leaderistica, e Francesco Boccia, sempre del PD, avverte Emiliano sarà la sorpresa. Poi comunque torneremo sulla questione delle firme a Roma. Silvio Berlusconi era testimone in tribunale oggi a Milano al processo a carico di Emilio Fede, un mio atto di generosità, così l'ex presidente del Consiglio ha definito il prestito di 2,8 milioni che aveva erogato a favore dell'ex agente dei VIP Lele Mora nel 2010. Da questa somma l'ex direttore del TG4 avrebbe trattenuto per sé oltre 1 milione di euro. Siamo sulle notizie dall'estero. Un italiano di 65 anni, Pier Claudio Raviola, originario di La Spezia, è stato ucciso in Nuova Zelanda, dove è stato aggredito in un parcheggio a scopo di rapina. La polizia neozelandese ha arrestato 3 persone, tra le quali un ragazzo di 16 anni. L'ambasciata italiana a Wellington sta fornendo ogni possibile assistenza alla famiglia in accordo con la Farnesina. E poi in Russia, oggi visita a Mosca per il ministro Alfano, che condanna gli arresti per le manifestazioni di piazza di ieri, ma ribadisce l'auspicio che la Russia rientri presto nel governo, nel novero dei grandi. Il tribunale di Mosca ha inflitto 15 giorni di carcere e circa 320 euro di multa ad Alexei Navalny, uno dei principali leader dell'opposizione russa, per le manifestazioni non autorizzate contro la corruzione, in particolare, dice Navalny, del premier Medvedev, per le quali a Mosca, ma anche in altre città russe, ieri sono stati arrestati centinaia di manifestanti. Arresti che hanno fatto insorgere tanto l'UE quanto gli Stati Uniti. In visita nella capitale russa, sulla stessa linea, si è espresso il ministro degli esteri Alfano. Milano. Non posso che riconoscermi nella posizione espressa ufficialmente dalla Unione Europea e ribadire la nostra fede nei principi di libera manifestazione del pensiero. Alfano ha incontrato tanto il suo omologo Lavrov che il vice premier Dvorkovic, annunciando che prossimamente a Mosca arriveranno il capo dello Stato Mattarella e quindi il premier Gentiloni. La Russia, ha detto, è un partner affidabile nella lotta al terrorismo globale e nell'energia. L'auspicio è che Russia e Ucraina riescano al più presto ad adempiere le condizioni del protocollo di Minsk per il superamento della crisi ucraina e che quindi quello di Taormina sia l'ultimo G7 senza la Russia. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore, Mosca. E ora la Gran Bretagna, dove tiene banco sui media britannici la storia della figlia ribelle del killer di Londra. Scotland Yard ha smentito, tra l'altro, legami tra Massoud, il killer appunto, e l'ISIS. Scollo vertiginoso, sandali audaci, sorriso disinibito. Eccola nella prorompente bellezza dei suoi 18 anni, la figlia minore dell'attentatore di Londra, Tegan Hardy, la figlia ribelle che ha rifiutato il velo e la conversione all'Islam e che ora, sulle prime pagine dei tabloid, diventa l'immagine della sfida delle libertà occidentali alla follia jihadista. Da un lato lo scatto condiviso sui social di una ragazza alla festa di fine anno, dall'altra la barba tipica dei radicalizzati sul viso di Khalid Massoud, che ha ucciso 4 persone davanti al Parlamento inglese. Quanto più passano i giorni dall'attentato, tanto più l'azione e il profilo di Khalid Massoud appare slegato da ogni precisa regia dello Stato Islamico. Nonostante la rivendicazione e il chiaro interesse nella jihad, la polizia conferma come non ci siano evidenze sui suoi legami col califfato. E nel fare chiarezza di sicuro non stanno aiutando i social, contro cui si scaglia la stampa britannica, perché non collaborano nell'affermare i video di propaganda terrorista. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi c'è questa notizia che arriva dall'Austria, relativamente ai migranti. Vienna potrebbe varare già domani il ritiro del piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. La proposta del ministro della difesa dei socialdemocratici è stata accolta dal ministro degli interni, che fa parte dei popolari. Secondo il ministro della difesa, l'Austria ha più che rispettato gli obblighi europei e quindi a questo punto si vogliono sottrarre. Di nuovo in Italia, con un sondaggio sul tema dell'eutanasia, 7 medici su 10 ritengono che in Italia dovrebbe essere legalizzata l'eutanasia, 7 su 10, lo rivela un'indagine effettuata dal portale web Punto di Riferimento dei Camici Bianchi, che è Sanità e Informazione, che ha interpellato via mail la classe medica italiana sul delicato e sempre attuale tema del fine vita. Sulla questione vi ricordo che ha un grande impatto mediatico, come dimostra di recente il caso di DJ Fabio. C'è anche una forte attenzione della classe politica all'ordine del giorno della Camera, la discussione per il disegno di legge sul testamento biologico, che oltre a regolamentare la parte relativa al consenso informato, prevede la possibilità per i pazienti di rifiutare i trattamenti sanitari, compresa la nutrizione e l'idratazione artificiale. E siamo al cinema con l'addio ad Alessandro Alessandroni. Lo sentite, Alessandro Alessandroni era il fischio più famoso del cinema, aveva 92 anni, segnò le colonne sonore degli spaghetti western come Per un pugno di dollari, composto da Ennio Morricone, che rese il film di Sergio Leone, praticamente tutti i film western migliori, ancora più grandi. È stato un grande professionista, abbiamo avuto una bellissima collaborazione, ha dichiarato Morricone, sapeva suonare benissimo la chitarra, era il direttore del coro, era superlativo e sapeva fischiare benissimo, come sentite, ha lavorato su Per un pugno di dollari in altre occasioni, dice come l'ho scelto per fischiare. Per caso mi serviva un fischio, dice Morricone, ho chiesto ai musicisti che lavoravano con me chi fosse in grado di fischiare bene, gli altri mi sono piaciuti di meno, lui ha avuto coraggio. E a proposito di cinema, stasera c'è la cerimonia per l'assegnazione dei David di Donatello, più tardi quindi cercheremo di capire chi saranno i premiati. Voglio darvi anche questa notizia che riguarda la medicina, la sessualità e boom in Europa e anche in Italia per le pillole dell'amore al maschile contro l'impotenza. Sono circa 180 milioni infatti le sexy pillole vendute nell'ultimo anno in Unione Europea, 180 milioni, ma c'è un dato allarmante, dilaga il fai da te con 6 uomini su 10 che utilizzano i farmaci antiimpotenza senza aver avuto una diagnosi né in molti casi una prescrizione da parte del medico e sono oltre 100 milioni le pillole acquistate senza ricetta, di cui 19 milioni in Italia e circa 3 milioni e mezzo sono vendute nei sexy shop. Questi dati emergono dallo studio internazionale presentato al congresso in corso a Londra della European Association of Urology, condotta su circa 1000 uomini questa ricerca. Per chiudere il calcio, al tecnico del Napoli Sarri è stata assegnata la panchina d'oro e intanto il Consiglio federale della Federcalcio, riunitosi a Coverciano, ha eletto vicepresidente della FIGC Cosimo Sibilia e Renzo Olivieri. Poi parleremo anche di calcio, tra poco cominceremo ad approfondire i vari temi. Per le vostre interazioni qui Effetto Notte c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, sempre a vostra disposizione giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS 349 238 6666. Dice Fabio: forte attenzione della classe politica sull'eutanasia. Ho appena letto questa notizia, velocissimo Fabio che dice magari. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le avete sentite in sintesi le notizie, Roberta Giordano sempre con voi, quindi cominciamo ad approfondirne alcune con gli ospiti. Pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre osservazioni e riflessioni sui vari temi, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666, dove questo ascoltatore o ascoltatrice, mettete almeno un nome d'arte, dice: pene esemplari, non è accettabile che un giovane perda la vita in questo modo. E stiamo parlando di uno dei due terribili fatti di cronaca di cui mi occuperò più tardi con gli ospiti. Tra poco invece andiamo più sull'economia e sui conti pubblici italiani e sulla politica. Intanto però vi ricordo, se avete acceso puntualmente le 21, i fatti principali di oggi. Tra 15 giorni il DEF, il documento di economia e finanza, approda in Parlamento. Il presidente del Consiglio Gentiloni dice: punteremo su equilibrio e bilancio e crescita. Renzi nel frattempo attacca e dice: i conti sono peggiorati con i governi Berlusconi, Monti e Letta. E poi questa decisione dell'Austria, l'Austria che sui migranti va verso la disdetta del piano dei ricollocamenti, e contemporaneamente l'Ungheria ce l'ha con l'Italia, dice: ci ricattate. E poi e quindi intanto dice: fa pressione l'Italia sul resto dei paesi dell'Europa orientale. Poi i fatti di cronaca: due bimbi a Trento uccisi dal padre a martellate, che poi si è tolto la vita, e il ventenne invece vicino Frosinone che è stato pestato a morte dal branco fuori da un locale. Il sindaco di Alatri dice: non siate omertosi, dite chi è stato. In Russia il blogger anti-Putin Navalny, condannato a 15 giorni di carcere, una multa di 320 euro per aver organizzato delle manifestazioni di protesta. Un giorno, dice, saremo noi a giudicarvi. Intanto Stati Uniti e Unione Europea chiedono di rilasciarlo. A Roma nuova grana per la sindaca Raggi, irregolare la raccolta di firme, secondo un servizio del programma di Mediaset Le Iene, di questo parleremo più tardi. E poi il gasdotto in Puglia, il via libera del Consiglio di Stato alla realizzazione. Berlusconi oggi era testimone al processo contro Emilio Fede sul prestito di soldi a lui e a Lele Mora. Lui, Berlusconi, ha detto: fu un fatto di generosità. E poi per chiudere il calcio con la panchina d'oro che è stata assegnata al tecnico del Napoli Sarri. Dunque procede l'attività del governo Gentiloni. Tra due settimane abbiamo detto, avete sentito anche dei titoli, che il DEF, il documento di economia e finanza, sarà in Parlamento. Gentiloni ha spiegato che il governo punta su lavoro, investimenti, mantenendo gli equilibri di bilancio e cercando di razionalizzare la spesa per sostenere la crescita. Nel frattempo però si è fatto risentire Matteo Renzi, perché dice che circolano delle fake news sul web, cioè delle notizie false a suo danno, e sottolinea che sui conti, dice, sono stati peggiorati con i governi Berlusconi, Monti e Letta. Vincenzo Miglietta, il nostro Vincenzo in diretta da Roma. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, Roberta, Vincenzo, si parla di conti, e quindi ha spiegato, e anche di attività economica del governo, ha spiegato Gentiloni quale sarà la roadmap nelle prossime settimane. Intanto, dicevo, Renzi però ci tiene a sottolineare, guardate che i conti non sono peggiorati con me, ma con i governi precedenti. Perfetto, è così. Allora partiamo, Roberta, proprio da Renzi, e ci colleghiamo alle parole dell'ex presidente del Consiglio. Secondo Renzi girerebbero delle cosiddette fake news, delle notizie false che punterebbero il dito sui suoi 1000 giorni a Palazzo Chigi, e Renzi allora dice: noi siamo stati sempre in linea con i dettami arrivati da Bruxelles, non siamo stati proni all'Unione Europea, ma siamo stati in regola con le regole del bilancio. Chi ha sbagliato in pratica per Renzi sono i governi precedenti, e quindi ha fatto i nomi di Berlusconi, Monti e Letta. Per quanto riguarda invece il Presidente del Consiglio Gentiloni, ci apprestiamo ad un aprile che sarà fondamentale per l'economia del nostro paese, perché avremo, come dicevi giustamente tu da studio, prima il documento di economia e finanza e poi entro il mese di aprile, entro la fine del mese, la cosiddetta manovrina di correzione. Allora, su questo, su entrambi i provvedimenti, Gentiloni è stato molto chiaro, non si tratterà di una correzione puramente finanziaria, ma quello che farà il governo dovrà essere con uno sguardo fondamentale allo sviluppo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il governo si impegna a rientrare dei famosi 3,4 miliardi di disavanzo, ma cercherà di inserire nelle misure di questa cosiddetta manovrina delle misure per la crescita, a partire da 1 miliardo per le zone terremotate. Quindi lo aveva anticipato il ministro dell'economia Padoan, lo ribadisce Gentiloni: non solo correzione dei conti, equilibrio dei conti, ma anche uno sguardo alla crescita, perché sono importanti il lavoro e gli investimenti. Vincenzo, vedremo se arriveranno le reazioni di Berlusconi, Monti, Letta su quello che ha detto Renzi. Sì, c'è già una prima reazione di Monti, che con il suo fare molto affabile, però critica logicamente, si difende rispetto a quanto detto da Renzi, e praticamente difende comunque l'operato del suo governo, che lo stesso Monti ricorda veniva nel momento del grande aumento dello spread. Senza le sue azioni economiche, ha ribadito Monti, l'Italia si sarebbe trovata come la Grecia. Grazie al nostro Vincenzo Miglietta da Roma. Ciao Vincenzo. Grazie, buonasera. E ora andiamo invece a questi fatti di cronaca nera che vi anticipavo all'inizio. Prima di tutto questa terribile storia che arriva da Trento, e due bambini di 3 e 5 anni che sono stati uccisi a martellate dal padre, i corpi sono stati ritrovati a casa dalla madre, successivamente è stato individuato il cadavere dell'uomo che si è tolto la vita gettandosi da una rupe in località Sardegna, a poca distanza da Trento. La donna questa mattina ha riferito che avrebbero dovuto firmare il rogito per l'acquisto di un appartamento. Lei a un certo punto, che fa la veterinaria, era uscita lasciando il marito a casa con i due figli, e alla base del gesto, secondo gli inquirenti, ci sarebbero forse probabilmente dei problemi economici legati all'acquisto dell'alloggio. Lui lavorava come operatore finanziario, in passato era stato carabiniere, non ha lasciato nessun biglietto in casa. Poi torneremo a parlare di questa vicenda, ma ce n'è un'altra terribile storia, che è quella del ragazzo di 20 anni di cui si è parlato in questi due giorni, massacrato fuori da un locale ad Alatri vicino Frosinone. Emanuele Morganti si chiamava, che aveva difeso la fidanzata, come succede spesso, da qualche bell'imbusto che aveva fatto degli apprezzamenti non graditi. I genitori, ve lo ricordo, hanno donato gli organi di questo ragazzo, quindi questa contrapposizione tra la generosità della famiglia del ragazzo morto e questa ferocia veramente inspiegabile di questo branco che lo ha assalito, pestato a morte. E poi il sindaco ha lanciato un appello, perché nessuno per il momento dice chi è stato, come è avvenuta questa cosa. Anzi, io il sindaco, prima ancora del sostituto, anzi farei sentire prima il sostituto procuratore, no, il prostituto procuratore di Trento, lo facciamo sentire dopo parlando della vicenda di Trento. Adesso invece farei sentire proprio l'appello del sindaco di Alatri, Giuseppe Morini, che era oggi ospite di Effetto Giorno da Simone Spezia. Sentiamo. Noi non dobbiamo colpevolizzare questa etnia o l'altra etnia. Ad Alatri convivono serenamente una comunità romena di 2500 persone, una piccola comunità albanese e la nostra comunità. Gli albanesi e i romeni che lavoravano insieme agli italiani nei cantieri, perché prima questa città si distingueva per l'attività edilizia molto sviluppata presso i cantieri grandi di Roma, diciamo che non hanno creato mai problemi. È chiaro che tra di loro, qualche volta, appena arrivati in questo paese, prima che si integrassero nella nostra cultura, nella nostra civiltà, nei nostri costumi, bevevano e magari di sabato, tra ubriachi, facevano qualche scazzottata, si scambiavano qualche alterco, ma mai è successo un ferimento, mai è successo niente di questo genere, grave. Dice. Solo questa volta, questo è un fatto, un episodio straordinario, veramente non sappiamo come reagire, perché ci siamo solo spaventati. E il sindaco, tra l'altro, ha detto anche: chissà parli, non deve, all'Atri non deve essere omertosa. Ne parliamo con Stefano De Angelis del Messaggero. Stefano, buonasera. Pronto Stefano? Pronto, sì, eccoci. Eccoci qui. Quindi ho sintetizzato un po', pare appunto che sia stato questo branco, sono 9 gli indagati, no, per l'omicidio del ragazzo, sarebbero... Sì, al momento sono 9 indagati, 8 italiani e un giovane di nazionalità albanese, che però da quanto è emerso avrebbe un ruolo un po' più marginale, diciamo. Mentre all'inizio si parlava tra i principali sospettati. Più di un gruppo di albanesi, invece adesso sembra che siano stati... Invece no, pare che lo scenario si sia completamente ribaltato, sì. È vero che una svolta alle indagini potrebbe venire dall'esame della videoregistrazione delle telecamere? Sì, però da quello che è emerso ci sono dei filmati che però comunque non sembrano fornire elementi importanti alle indagini, al momento almeno, insomma, diciamo, andrebbero analizzate, ma da quello che così da fonti investigative pare che comunque poi sarà difficile, insomma, risalire a qualcosa da quelle immagini. Senti, qualcuno ha detto più o meno, ha avuto un'idea di quante più o meno persone si sono... lanciate contro questo povero ragazzo? Si parla di branco? Sì, si parla comunque poi di quelle effettive, una decina, infatti il numero di indagati corrisponde a quelle persone, non di più comunque, almeno da quello che è emerso proprio poco fa. Perché pare che nessuno lo abbia difeso, poi invece è venuto fuori un amico che ha detto: ho tentato di fare scudo corpo. C'era un ragazzo, un ragazzo con lui, che tra l'altro è rimasto anche lui ferito al collo con graffi e tagli quando ha cercato di intervenire appunto per salvare, diciamo così, Emanuele un po' da quella furia cieca. Sarebbe stato colpito con delle spranghe, Emanuele? No, da quello che è emerso no, praticamente si è tuffato, diciamo, nella situazione, lì nel parapiglia e nel pestaggio, e poi respinto, allontanato proprio in questo frangente. Ma proprio la vittima invece, Emanuele Morganti, con cosa sarebbe stato colpito? Allora, da quello che è emerso, con un oggetto contundente, quindi si pensa a una spranga o un arnese di ferro, pare addirittura, da quello che emerge negli ultimi momenti, prelevato da un'auto. Potrebbe essere stato prelevato da un'auto, quindi non preso a piazza di Alatri, come inizialmente poteva sembrare. E poi, quindi, colpito la testa con questo oggetto, e poi colpito con calci e pugni quando già era a terra, quasi svenuto. Quindi adesso ci sono questi 9 indagati, bisognerà capire nelle prossime ore se emerge qualcosa. Sì, a breve, da quello che è emerso, sviluppi potrebbero esserci proprio, diciamo, a minuti, praticamente. Grazie Stefano De Angelis, intanto. Grazie e buon lavoro dal Messaggero. Ciao. E adesso vorrei coinvolgere il professor Enrico Zanalda, che è segretario della Società Italiana di Psichiatria. Buonasera, professore. Buonasera. Ha sentito questi due casi terribili, molto diversi naturalmente tra di loro. C'è per esempio un'ascoltatrice, Carola, da Torino, che dice: sulla morte del ventenne vorrei dire questo, ma perché nessuno accusa il fatto che la grande maggioranza di questi atti di violenza sono dettati dall'esaltazione da cocaina? Sono tutti pieni di coca quelli che provocano delitti così efferati, e perché la polizia non irrompe in queste discoteche? Sono perfettamente, covid spaccio, non è detto tutti. Insomma, secondo lei, professor Zanalda, diciamo che la violenza purtroppo è insita, no? Che poi il branco, quando si mettono insieme dei maschi, ancora più si esaltano della reciproca violenza e anche di prendere qualcuno così vigliaccamente d'assalto. Secondo lei effettivamente può essere una lettura questa, che c'è sempre più uso di stupefacenti, di alcol, oppure perché? Cosa può essere successo? Cosa può scatenare, cioè, senza che nessuno di loro si ribelli o si fermi a un certo punto, no? Sì, quello che lascia attoniti è proprio quello, che il branco agisca così in maniera omogenea, se vogliamo, che nessuno anche tra di loro possa a un certo punto dire basta, cioè continuare a infierire su una persona che è caduta a terra con calci e pugni, usare spranghe 9 contro 1, è veramente un atto che forse può essere spiegato meglio dall'uso di sostanze, che sia la cocaina, come diceva giustamente l'ascoltatrice, ma anche l'alcol possono, o anche le due cose insieme, come sovente capita, possono determinare. L'emulazione all'interno del branco e sembra anche un branco impazzito, un branco senza un capobranco, no? Un branco così di persone che si scatenano in questa violenza finalizzata proprio ad annientare l'altra persona che in quel momento diventa il nemico, un oggetto quasi. Rispetto all'altro però mi scusi, professor Zanalda, mi chiedevo questo, in realtà non è una cosa nuova, no? La violenza no. Dei gruppi, anche del singolo, ma dei gruppi contro il più debole è una roba vecchia come la storia dell'uomo, sì, certo, no? La violenza certo, maschile certo. In particolare, di questo stiamo parlando, quindi forse c'è poca, in realtà c'è poca evoluzione in questo senso, più che la cocaina, diciamo che più una questione moderna, ecco, tra virgolette, c'è poca evoluzione culturale, umana in questi atteggiamenti, in questa violenza. Beh, questo sicuramente, però l'alcol, la cocaina comunque aiutano molto i momenti di esaltazione e lo scatenare della violenza fino a questo livello, cioè effettivamente gli scontri tra bande o comunque anche scazzottate fuori dalle discoteche piuttosto che in altri luoghi di ritrovo ci sono stati da tanto tempo, però arrivare insomma ad ammazzare una persona è già un fatto abbastanza eccezionale, per fortuna. Devo dire che non infrequentemente si vedono comunque situazioni simili ma di un livello decisamente meno grave. Questo lascia attoniti sia per il numero di persone che sono accanite contro lo stesso, sia perché, diceva la polizia, mi sembra che era come se fosse stato passato sotto un camion. Quindi è veramente una violenza che va un po' al di là di quello che insomma generalmente può essere la violenza senza uso di sostanze, poi sarà la polizia a definirlo. Certo, dicevo, mettevo in rilievo proprio la contrapposizione tra la generosità della famiglia che non ha esitato a donare gli organi del ragazzo e veramente questa violenza cieca. Senta, invece diceva dell'altra storia, così, questa tragedia familiare di Trento. La violenza è l'unica cosa che li accomuna, ma in un caso diciamo che l'emulazione del gruppo, l'insieme, la partecipazione, diciamo la scarsa individualità delle persone che si scatena in violenza. Nell'altro caso invece è tutto il lavoro intrapsichico di una persona che, se è vero poi, che come insomma è stato detto, ha vissuto tutta una situazione di difficoltà, no? Per evidentemente a non poter raggiungere o fare quel rogito che sembrava dover fare, e quindi che tutto un lavoro io interno imprevedibile di cui non ha dato nessuna, almeno da quello che si legge sui giornali, nessuna visibilità da renderlo prevedibile precedentemente, e che improvvisamente è esploso in una rabbia contro se stesso e contro i figli più piccoli, in quello che è l'omicidio-suicidio già descritto da molti anni nella psichiatria, che però sarebbe tipico della grave melanconia, della grave depressione che non insorge in poco tempo, che quindi generalmente dà dei segni premonitori che possono far vedere già la sofferenza della persona. Qui quello che lascia molto perplessi è che nessuno si sia accorto di niente precedentemente, e che improvvisamente questa persona, proprio nel momento in cui stava per comprare la casa o per fare il rogito, sia crollato il suo mondo, e evidentemente e questo lavorino interno l'abbia determinato a comportarsi in quel modo lì, quindi a autodistruggersi, distruggere anche le persone che aveva vicino a sé. Scrive Francesco: la parte animalesca dell'uomo esiste ed è pericolosa, proprio per questo la cultura è essenziale, quello che ci deve insegnare che la vita è il bene supremo e quella altrui non ci appartiene per nulla, neanche quella di un figlio. Vabbè, per stasera ci fermiamo qui, grazie professor Enrico Zanalda. Grazie. Buonasera. Buona serata. Buonasera. Grazie. Direi che possiamo lasciarci brevemente, voi continuate con le vostre riflessioni, le vostre osservazioni, sia al 349-238-6666, dove mandate sms o whatsapp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte, tra pochissimo. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora ad approfondire i temi con gli ospiti. Ci sono i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Per esempio Alex, riallacciandosi ai temi con cui abbiamo chiuso prima la parte precedente, quindi i fatti di cronaca, in particolare anche la vicenda di Alatri vicino Frosinone, dove fuori di un locale è stato massacrato, pestato a morte questo ventenne, dice Alex: faccio il DJ nelle disco, nonostante i controlli molto presenti si consuma di tutto, coca, MDMA, che non so bene cosa sia, chetamina, e con l'alcol, dice, si esalta tutto. Quindi una testimonianza di chi ci lavora, confermando purtroppo quello che diceva un'altra ascoltatrice a proposito di cocaina. Adesso cambiamo tema, parliamo di politica e ne parleremo tra pochissimo con la prossima ospite. Intanto, se non avete sceso puntualmente, vi ricordo in sintesi i fatti principali. Il governo ai conti, tra 15 giorni il DEF, il documento di economia e finanza, approda in Parlamento. Gentiloni spiega che l'esecutivo punta su lavoro e investimenti. Intanto si fa risentire Renzi e dice i conti sono peggiorati con i governi Berlusconi, Monti e Letta. Trento, due bambini uccisi a martellate dal padre che poi si è tolto la vita. Gli inquirenti parlano di gesto dovuto a problemi economici. Il ventenne pestato a morte dal branco, l'appello del sindaco di Alatri che dice chissà parli, fuori dal locale c'erano tante persone, nessuno ha fermato gli aggressori. Poi Roma con questa nuova grana per la sindaca Raggi che riguarda le firme per la sua candidatura, ne parleremo tra pochissimo. Austria, Vienna potrebbe varare già domani il ritiro dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Il via libero del Consiglio di Stato al gasdotto in Puglia. E poi per il cinema stasera la cerimonia di premiazione per i David di Donatello, oggi attori e registi accolti al Quirinale. Quindi Roma, dicevamo, dopo l'inchiesta sulle firme false del Movimento 5 Stelle a Palermo e Bologna scoppia il caso, un caso sospetto che riguarderebbe anche le firme raccolte per la candidatura della sindaca Virginia Raggi nella capitale. In un servizio su Mediaset, nel programma Le Iene, andato in onda ieri, dal titolo C'è un falso nella candidatura del sindaco Raggi, Filippo Roma, la Iena Filippo Roma, che già aveva smascherato la firmopoli palermitana di 5 Stelle, indaga su un evento verificatosi nell'aprile del 2016 durante la campagna elettorale pentastellata. E per avere dei chiarimenti ha rincorso la sindaca Raggi anche sulla L'Alpe di Susi, dove lei si era rifugiata per riposarsi. Lei lì non ha dato risposte particolarmente ficcanti, però oggi ha replicato alle Iene dicendo effettueremo ulteriori accertamenti e verifiche. La vogliamo sentire la sindaca Raggi? Sì, l'abbiamo letto, non solo, sono anche, come avete visto, sono anche venuti in montagna. Abbiamo sempre risposto tramite i delegati di lista, che sono peraltro due avvocati, mi hanno rassicurato, comunque effettueremo anche gli ulteriori accertamenti e verifiche, ma da quello che mi viene rappresentato dai miei stessi delegati non c'è alcuna irregolarità. Saluto Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Ciao Manuela. Ciao Roberta. Il caso delle firme nella capitale è stato sollevato, lo ricordiamo, da Alessandro Onorato, consigliere comunale per la lista Marchini, no? Sì, Alessandro Onorato ha fatto una richiesta di accesso agli atti e ha ottenuto questo atto principale, così viene definito, che è sostanzialmente il documento che a cui sono allegati gli atti separati, cioè i moduli per la raccolta delle firme a sostegno della candidatura di Raggi alle comunali dello scorso giugno, e ha scoperto che l'atto principale è stato autenticato e porta la data del 20 aprile 2016, mentre le 1.352 firme che sono state raccolte derivano dalle firme raccolte il cosiddetto firma day, e cioè il 23 aprile. Ci sono quindi questi tre giorni di scarto che secondo Onorato potrebbero prefigurare un falso. Lui domanda: ma allora sono stati veggenti, come facevano a sapere il 20 aprile che avrebbero raccolto 1.352 firme? E qui c'è il nodo, diciamo così, giurisprudenziale, perché secondo i delegati di lista citati dalla sindaca l'atto principale è un atto atto, una fattispecie a formazione progressiva, cioè è un atto che poi si completa strada facendo, a conclusione, diciamo così, con gli atti separati. Il Movimento 5 Stelle Roma cita dal blog di Grillo un precedente del TAR Friuli Venezia Giulia, secondo cui questa discrasia temporale non inficia la regolarità delle operazioni elettorali, e quindi mette le mani avanti sostenendo che tutta l'operazione, cioè che non si può sostenere che la stessa elezione della sindaca sia illegittima. E quello che stava cercando di spiegare anche un ascoltatore, qui stavo leggendo sulla pagina Facebook di Effetto Notte, quindi sarebbe questa la spiegazione da parte del Movimento 5 Stelle. Sì, il problema è che la giurisprudenza non è concorde su questo punto, ci sono delle pronunce che dicono il contrario e non c'è perfetto accordo su questa lettura. Certo è che dal Campidoglio stentano tranquillità, perché appunto sostengono che non si può assolutamente, anche se ci fosse stato un errore, non si potrebbe dedurre l'irregolarità dell'elezione di Raggi. Diciamo che politicamente è la terza volta che il Movimento 5 Stelle inciampa sulla questione delle firme. Ricordiamo che a Bologna ci sono 4 indagati, a Palermo ce ne sono 14, per il caso di Palermo sono stati addirittura sospesi dal Movimento 5 Stelle 3 deputati nazionali, e che quindi insomma è un'altra grana che avvelena i pozzi anche all'interno del movimento. Chiaro, insomma, vediamo i prossimi sviluppi. Grazie intanto a Manuela Perrone. Ciao. Grazie, Manuela. A voi. Viabilità. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ve le ricordo adesso in pochi secondi le notizie, le avete sentite più volte, ma se non accendete puntualmente alle 21, io comunque ve le ricordo i fatti principali. Tra 15 giorni approda il DEF, il documento di economia e finanza, in Parlamento. Il Presidente del Consiglio Gentiloni ha detto: punteremo su lavoro, equilibrio e bilancio e la crescita. Intanto Renzi torna a intervenire e dice: sui conti ci sono notizie false che girano sul mio conto, i conti sono stati peggiorati in realtà con i governi Berlusconi, Monti e Letta. E poi, a proposito di migranti, l'Austria che va verso la disdetta del piano di ricollocamenti, e quindi si vuole sottrarre a ricollocare degli immigrati nel proprio paese, perché dice: noi abbiamo fatto abbastanza. Intanto l'Ungheria dice che viene ricattata dall'Italia con la pressione su di sé. Poi due bimbi uccisi dal padre a Trento, che poi si è tolto la vita, e l'altra vicenda di cronaca nera: il ventenne pestato a morte dal branco fuori da un locale ad Alatri, vicino Frosinone, col sindaco che dice: chi sa qualcosa parli, non siate omertosi. In Russia il blogger anti-Putin Navalny, che aveva organizzato delle manifestazioni di protesta, condannato a 15 giorni di carcere, a una multa di 320 euro, con Stati Uniti e Unione Europea che ne chiedono la liberazione. La nuova grana per la sindaca di Roma Raggi, ne abbiamo appena parlato a proposito di queste irregolarità nella raccolta di firme per la sua candidatura. E poi il Consiglio di Stato che dà il via libera al gasdotto in Puglia. E abbiamo una panchina tutta d'oro, è vero Dario Ricci? Sì, infatti vedi, sono già un po' sdraiato, perché l'idea della panchina. Sì, la panchina è quella di Maurizio Sarri, che è stato nominato il miglior tecnico della scorsa stagione, battendo Max Allegri. È stato simpatico Sarri, tra l'altro premio prestigioso perché è attribuito dagli allenatori agli allenatori. Quindi insomma tra colleghi, insomma, esattamente, quindi battuto Allegri per 3 voti, il tecnico della Juventus. Allora Sarri ci ha giocato un po' su, ha detto, dice: bello ogni tanto arrivargli davanti, anche perché poi domenica Napoli-Juventus si incontrano in campionato e mercoledì, sempre al San Paolo, si risfidano in Coppa Italia. Quindi intanto l'ha battuto nella corsa alla panchina d'oro, ma poi si vedrà sul campo. Vorrebbe fare almeno il bis, se non il tris. A proposito di panchine, c'è poi chiaramente la panchina più importante, quella della nazionale, su cui domani sera si risiederà Gian Piero Ventura. Venerdì amichevole, però amichevole con l'Olanda che invece ha visto saltare saltare la sua panchina, perché nel frattempo ha perso una partita importante nelle qualificazioni con la Bulgaria, quindi esonerato il CT Blind e domani c'è l'assistente Grimm alla guida dei Tulipani, ma sarà una partita importante che racconteremo insieme, anche perché è la prima di Gigio Donnarumma, il portiere 18enne del Milan, da titolare in azzurro. Quindi parte... al posto di Buffon domani sarà il portiere della nazionale. Esce per il momento Gigi Buffon a 38 anni, entra Donnarumma e un altro veterano invece, De Rossi, a 34 anni, raggiunge Dino Zoff con 112 presenze. Bastano questi numeri per dare l'idea di un cambio generazionale, anche se poi al Mondiale di Russia, se ci arriviamo, sicuramente Buffon sarà ancora competitivo e magari titolare. Ma insomma, quanti anni ha Buffon? 38. Quindi inizia l'era Donnarumma, diciamo. 20 anni di differenza. Senti, è mai successo che un portiere di 18 anni fosse portiere della nazionale a 18 così giovane? Oddio, domandona da Trivial Pursuit, ma devo dirti, forse è capitato allo stesso Buffon, non ricordo esattamente il giorno della presenza, ma certo i 18 anni credo che Donnarumma sia il più giovane come portiere titolare, perché... il talento è straordinario e quindi ben venga questa cosa. Senti, poi se gli ascoltatori mi smentiscono, ben venga, io accetto correzioni e suggerimenti. Vediamo se qualcuno in tempo reale scrive sull'età. Senti, e poi per chiudere, abbiamo ancora 30 secondi, FIGC nomine per la federazione... Sì, i vicepresidenti Sibilia e Olivieri sono di fatto Tavecchio, che ha vinto le elezioni anche grazie ai voti dell'asso allenatori, in qualche modo paga i dividendi, no? Perché comunque è inevitabile che ci voglia una concordia di visione e di intenti per strutturare un gruppo di lavoro, insomma, niente di clamoroso o di troppo opaco, ecco, insomma. Dario, quindi noi ci riaggiorniamo domani con la nazionale. Domani sera, se un po' che fa Donnarumma. Io ogni tanto busso al vetro e ti aggiorno su un'energia che magari non sì, ti sento. Sì, sì. Grazie, ciao Dario. Ciao, buona serata. Indebolisce la nostra anima la perdita di interesse per il cinema, indebolisce le nostre emozioni. Diveniamo solo corpo. Il 2000 è diventato il secolo del corpo. Ci sono solo cuochi, cucine, ricette, sport, lifting. Ma io pensavo, chissà il 2000 che ci porterà. È tutta una cosa di corpo. Siamo andati troppo avanti con il corpo in questi anni. Dobbiamo sostare, fermarci e permettere alle nostre anime di raggiungerci. Perché sono rimaste indietro. Sono rimaste indietro le nostre anime. E questo... solo il cinema lo può fare. Solo il cinema lo può fare, dice Benigni, cara Marta Cagnola. Stasera cerimonia di premiazione della 62esima edizione degli Oscar italiani, ovvero i David Donatello. Ebbene sì, è in corso in questo momento, questa mattina a Benigni al Quirinale, perché come sempre prima della cerimonia di presentazione dei candidati ai primi David Donatello, prima della cerimonia di premiazione c'è la cerimonia di presentazione al Quirinale con il presidente appunto Sergio Mattarella. Oggi c'era Benigni che così ha detto, si è anche svelato come portavoce del PC, che però è il partito del cinema italiano. In questo momento i primi premi sono stati dati: miglior attore non protagonista Valerio Mastandrea per Fiore, miglior attrice non protagonista Antonia Truppo per Indivisibili, miglior sceneggiatura originale Guaglianone Petronio De Angelis ancora per Indivisibili e miglior sceneggiatura non originale Sabidu, Chiti e De Mola per La stoffa dei sogni. Insomma, per ora ai primi premi sta dominando Indivisibili, sappiamo che è uno dei film con più candidature. Quello delle due gemelle. Sì, bellissimo, bellissimo. Delle due gemelle siamesi, Angela e Marianna Fontana, che poi in realtà non sono siamesi nella vita, ma gemelle sì. Il maggior numero di candidature insieme alla pazza gioia di Paolo Virzì e poco dopo Veloce come il vento di Matteo Rovere. Insomma, per ora vince su di loro Indivisibili, che ha già preso due statuette. Quindi per ora tra virgolette i premi minori, diciamo, perché poi manca soprattutto il miglior film, migliore regia e poi miglior attore protagonista e attrice protagonista, no Marta? Protagonisti, diciamo, si parte tradizionalmente dai non protagonisti come agli Oscar. Certo. Per ora Valerio Mastandrea appunto, che per Fiore ha ringraziato, commosso il protagonista del film Joshua, che era un ragazzo dalla vita difficile che purtroppo è scomparso poche settimane fa in un incidente stradale. Si va in un crescendo con i premi, buona visione a te allora Marta Cagnola, ciao. Grazie e noi ci risentiamo brevemente alle 22.